Ci siete? Vi siete già preparati per questa giornata indimenticabile? Io dichiaro che i versi che stiamo per leggere, che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Filippesi, oggi possono segnare un solco nelle nostre vite che ci possono portare a un domani che è stato diverso da un nostro ieri. Ci piace? Siete con me? Allora, Filippesi 4 dal verso 10. Paolo scrive: ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava ancora l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Il primo verso di questo pezzo, facciamo una piccola introduzione che sarà separata da quello che è il messaggio, però volevo comunque evidenziarlo. Finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Sta parlando di soldi, ok? La tematica che è sempre un po' scomoda, però è stato grazie a questo dono che Epafrodito, supportato dalla chiesa di Efeso, che ha raccolto, che ha portato a Paolo a Roma, che Paolo sta scrivendo questa lettera. Uno dei motivi per cui Paolo scrive questa lettera ai Filippesi è per ringraziarli per il dono di soldi che lui aveva ricevuto. E in Atti 16 noi abbiamo letto come Paolo, Silla e Timoteo avevano fondato la chiesa d'Efeso nel 51 d.C. durante il loro secondo viaggio missionario. Abbiamo visto come in Atti 20, sappiamo dalla lettura di Atti 20, che Paolo era andato una seconda volta a visitare Efeso mentre attraversava la Macedonia per arrivare ad Efeso. Scusatemi, era andato una seconda volta a visitare Filippi mentre attraversava la Macedonia per arrivare ad Efeso, e sappiamo che al ritorno da Corinto, mentre riattraversava la Macedonia, era ritornato una terza volta a Filippi per visitarli. Quindi in tutti questi viaggi che lui aveva fatto e in tutte le volte che lui era andato via da Filippi, i filippesi avevano raccolto provviste per le sue necessità già due volte quando lui li aveva lasciati. E la terza volta gli stavano inviando questo dono di soldi mentre era a Roma. E Epafrodito sarebbe ritornato a Filippi con questa lettera che noi leggiamo. Ora, mi piace questo andare a vedere un po' la genesi, che cosa c'è dietro le parole che leggiamo, che cosa c'è nella vita vera, nella storia vera delle persone che hanno vissuto davvero. Non è una storia inventata. Parla di esperienze vissute da persone vere, reali, come me e come te. Mi piace perché questo aspetto sottolinea come la partecipazione al Vangelo passa in uguale misura sia attraverso il nostro tessere le relazioni e testimoniare di Cristo alle persone che ci circondano, sia attraverso il nostro donare e il nostro dare per permettere a queste relazioni di crescere e raggiungere dei posti nuovi e conquistare persone nuove che altrimenti non si sarebbero potute raggiungere. Infatti, voi sapete tutti, in 2 Corinzi, lo possiamo leggere, come grazie al dono che Paolo aveva ricevuto dai filippesi, lui era potuto andare nella città di Corinto senza chiedere soldi a nessuno e rimanere lì un tempo importante per evangelizzare quella città, conquistare quella città per il Vangelo, portare persone a salvezza e fondare una chiesa. Mi piace perché questo sottolinea la frase che Paolo poi dice, e qui possiamo già compilare i nostri appunti. La gratitudine, la parola da inserire è gratitudine, la gratitudine di Paolo verso i filippesi per il dono ricevuto non era, altra parola da inserire, non era collegata al suo essere nel bisogno. La terza parola da inserire è bisogno. La gratitudine di Paolo verso i filippesi, come abbiamo letto in questi versi, non era legata al fatto che lui era nel bisogno e quindi gli dice grazie che avete raccolto questi soldi e io posso andare a fare la spesa. Non era questa la gratitudine che Paolo aveva verso di loro. quanto piuttosto perché era bene per loro essere dei donatori. Era bene per loro essere dei donatori. Perché nonostante anche i filippesi erano nel bisogno e si trovavano in una situazione di povertà, lo scrive ai Corinzi per incoraggiarli a fare altrettanto, loro avevano avuto la grazia e il privilegio di poter contribuire al progresso del Vangelo donando generosamente, nonostante la persecuzione e la povertà in cui si ritrovavano. Era di questo grato Paolo. Questo cosa significa per noi? Che il nostro donare finanziariamente, le nostre decime e le nostre offerte, non fa bene a Dio. Fratelli e sorelle, amici a casa, sicuramente paga le bollette, sicuramente paga l'affitto, sicuramente ci ha permesso di essere qui oggi, sicuramente ci ha permesso di comprare una telecamera e di trasmettere online e di far arrivare questo messaggio nelle case delle persone che lo stanno ascoltando. Ma fa bene a noi. Fa bene a noi perché ci rende partecipi del progresso, del Vangelo che arriva a conquistare sempre più persone che hanno bisogno di ricevere salvezza e di arrendere la loro vita a Cristo. Mi piace. Mi piace. Perché io adoro la concretezza. Le ho scritte. La concretezza, la pragmaticità, la verità. La vita vera è piena, completa, che trasuda dalla parola di Dio. Quando noi leggiamo la parola di Dio, è pratica, è concreta, la tocchi perché ci tocca, perché riguarda noi. E mi piace che questa lettera parla ancora a noi oggi. Ma voi ci pensate che Paolo era in prigione, aveva ricevuto questi soldi da Epafrodito, si mette a scrivere questa lettera da portare ai Filippesi e noi dopo 2023 anni la leggiamo ancora e ci parla e ci racconta di come possiamo vivere la nostra vita. Io credo che sia straordinario. Ma veniamo al nostro messaggio. Questa era un'introduzione. Non dico, verso 11, non lo dico perché mi trovo nel bisogno, poiché io ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Lo ripete due volte. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Poiché io ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. Ora, nel testo originale, sono andato a studiare, perché dobbiamo capire bene il significato di quello che Paolo sta scrivendo ai Filippesi e che ci vuole dire a noi oggi. E noi sappiamo tutti quanti che tutte le lettere del Nuovo Testamento, o la maggior parte, ora non so, sono scritte in greco, perché era la lingua corrente delle chiese dove erano state fondate nella Macedonia. E nella lingua originale greca, nella quale Paolo aveva scritto queste lettere, l'ordine delle parole nella costruzione della frase è diverso rispetto all'ordine delle parole nella costruzione italiana. E io sono sempre un po' fissato, perché secondo me a volte quando andiamo a tradurre qualcosa, un po' perdiamo il vero significato che sta nelle parole. Me ne sono accorto quando sono andato a vivere in Australia. Io volevo dire tante belle cose in italiano e in inglese erano due parole. E io ho detto, scusa, ma non è questo quello che voglio dire. Cioè, io voglio dire tutta un'altra cosa. Hai perso tutto il significato. Quindi, ho trovato la frase in greco, che è sullo schermo, e ve l'ho voluta scrivere, proprio per precisione. Ego garematon en ois eimi autarches einai. Questo è quello che Paolo ha scritto ai Filippesi, che tradotto letteralmente, seguendo l'ordine delle parole in greco, che non è, diciamo, nell'italiano corretto, corrente, giusto, dice questo: io ho imparato in qualsiasi circostanza che io sono contento di essere. Che significa? Sono contento di essere. Antonio, che significa sono contento di essere? Mi sono chiesto. Elisa, Gianluca, Milena, Antonio, Che significa? Che tu sei contento di essere? Questa è una domanda da porci. Che sei contento di essere in qualsiasi circostanza tu ti trovi? Che significa? Siamo in grado di avere una conversazione con un nostro collega, con un nostro amico, con una nostra amica, con nostro marito, con nostra moglie, con i nostri figli? Siamo in grado di avere una conversazione e dire, sai, io sto imparando, al di là di questa circostanza, che io sono contento di essere. Perché io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Siamo in grado di avere questa conversazione? Questo mi sono chiesto. Abbiamo la possibilità, di vivere contenti di essere, perché in ogni cosa noi possiamo, attraverso Cristo, avere la forza di poterlo essere. E andremo un po' ad investigare questo aspetto che ha aperto il mio cranio in questi giorni e ha, diciamo, e gli omini iniziavano a saltare dentro. Aiuto, aiuto, che cosa mi stai dicendo? Sapete, se leggiamo questa frase, io ho imparato di essere contento dello stato in cui mi trovo, se la prendiamo così, estrapolata, senza contesto, senza un riferimento di quello che è il concetto e del discorso che Paolo sta facendo, sembra quasi una frase da persone povere all'oro, no? Quello ha imparato ad accontentarsi. È vero. Un predicatore motivazionale non prenderebbe mai questa frase per, diciamo, basare il suo messaggio e incoraggiare le persone a vivere una vita straordinaria. Diciamo, che cosa dovrebbe dire? Impara ad essere contento dello stato in cui sei. Yeah! Sarai forte, andrà alla grande, avrai successo. È vero, se la leggiamo superficialmente, un po' non riusciamo a comprendere il valore e il significato che c'è in questa frase. Eppure, a mio avviso, considerando la vita di Paolo, considerando il pulpito dal quale viene la predica, come si suol dire, io ho imparato in qualsiasi circostanza che io sono contento di essere, piuttosto, a mio avviso, è un'affermazione di una persona che ha raggiunto grandi cose e che ha la forza, ha la capacità, ha l'abilità di guardarsi indietro, di guardare quello che è stato e avere la forza di affermare per se stesso che lui ha imparato ad essere contento, punto. Paolo si è guardato indietro mentre scriveva questa lettera ai Filippesi che gli avevano dato per la terza volta il dono e ha voluto sottolineare a loro che sì, era grato, ma non era grato perché lui era nel bisogno, era grato perché loro stavano partecipando al progresso del Vangelo. Anzi, lui si stava guardando indietro a tutte le persecuzioni, a tutto quello che era successo e ha detto io ho imparato ad essere contento, punto. E questo punto è grande quanto la croce di Cristo. Questo punto è grande quanto la croce di Cristo. Riprendiamo i nostri appunti. Contenti non significa accontentarsi. Scriviamocelo, maiuscolo. Contenti, che l'Apostolo Paolo ci sta incoraggiando questa mattina, non significa accontentarsi. La vita ostentata è una vita accontentata. La vita ostentata è una vita accontentata. La vita che la società ci impone, la vita che il consumismo ci detta che dobbiamo avere. E non voglio entrare in un cliché, ok? Però è la vita che guardiamo in TV, nei reality. È la vita che guardiamo sui social, quando scrolliamo le nostre storie. Quella è una vita. Quella vita che è intorno a noi, che ci bombarda, quella è la vita che si accontenta di qualcosa che prima o poi finisce e che non dura per sempre. Quella è una vita che si accontenta di qualcosa che prima o poi finisce e che non dura per sempre. Che cosa aveva detto Gesù? Chiunque può farlo. Chiunque vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. La vita, i nostri appunti ritornano, salvata, ovvero la vita che stringi nelle tue mani, quella vita che stringi stretta a te nelle tue mani, è una vita accontentata, è una vita che si sta accontentando di qualcosa che non durerà per sempre. Sai cosa ti direbbe Gesù di quella vita tua, di quella parte della tua vita che stringi e che vuoi salvare a tutti i costi, che non vuoi lasciare? Direbbe che è una vita persa. Perché che cosa io e te possiamo dare in cambio della nostra anima? Che cosa noi possiamo fare, o possiamo dare, o possiamo avere, o possiamo, non lo so io, mettici tu quello che vuoi, in cambio della nostra anima? In cambio della nostra anima, nulla. Senza la vita di Cristo in noi ci stiamo accontentando. Di cosa? Ci accontentiamo di quello che abbiamo. Però siamo sempre un po' insoddisfatti quando ci accontentiamo di quello che abbiamo, è vero? Perché vorremmo sempre qualcosa di più. Senza la vita di Cristo in noi ci accontentiamo di quello che sudiamo. Ce lo siamo sudati. Eppure ci sentiamo frustrati. Perché in fondo abbiamo sudato così tanto, ma quello che abbiamo ottenuto non era poi veramente corrispettivo al sudore che abbiamo tirato fuori. Non so se voi vi sentite a volte così, dopo tutto il sudore che versate, e guardate lo stipendio che arriva e dice, vabbè, tutto che sia. È vero. Senza la vita di Cristo in noi ci accontentiamo di quello che otteniamo. Però poi in fondo siamo anche un po' rassegnati, perché per noi la vita è andata così. Vedi, a questo, sempre in giro nel mondo se ne va. Belli i posti che fa, beato a lui, a me, a Modugno io. Mi sono trasferito a Modugno, tu pensa. La verità è che non solo ci accontentiamo, ma il nostro accontentarci di quello che abbiamo, di quello che sudiamo, di quello che otteniamo, è per un momento. È per un momento, per un istante, non dura niente, perché ci stufiamo subito. Ci stufiamo subito di quello che abbiamo, perché alla fine non basta. E dobbiamo sudare ancora. E dobbiamo sudare ancora di più, perché vogliamo ottenere quello che desideriamo, però poi alla fine i conti non tornano mai. E abbiamo sudato così tanto e non sappiamo nemmeno se riusciremo ad ottenere quello che desideravamo. Non so voi, però a me è venuta già la sconfidenza. Cioè io già me ne voglio lasciare, io esco, me ne vado, stop. Accontentarsi, amici miei, significa che permetti al lavoro di definire chi sei. E quindi se il lavoro è di successo e tu hai una promozione perché il tuo capo ti ha notato, sii forte. Se spendi tutto il tuo tempo a sudare e nessuno mai ti dice grazie, anzi, le hai addosso, anzi, ti licenziano, anzi, non trovi lavoro, anzi, lavori e non vieni pagato, sei un fallito. Ti stai accontentando del tuo lavoro e questo sta definendo chi sei. Accontentarsi significa che permetti alla salute di definire chi sei. E qui è un po' più intima la cosa. Perché sei malato e quella malattia non è passata e tu hai pregato e quello è guarito e tu non sei guarito e allora sei tu che sei sbagliato. Perché tu sei malato e quella malattia non ti lascia e la tua salute definisce chi sei. E la tua salute non ti fa vivere una vita piena perché sei malato, non le puoi fare tutte le cose. Non puoi andare a mangiare in pizzeria, non puoi andare a fare un viaggio. La tua malattia definisce chi tu sei, perché ti stai accontentando. Accontentarsi significa permettere al tuo status sociale di definire chi sei. Sei fatto grande e non ti sei sposato. Non va bene. tutto questo tempo impegnato per il matrimonio e poi ti sei divorziato. O hai tradito. O hai perso le persone che amavi. E tutte queste cose, quando noi ci accontentiamo, permettiamo a queste cose di definire chi noi siamo. Sapete, c'è una storia straordinaria che Gesù racconta nel Vangelo di Luca, ed è la storia del figlio che aveva chiesto al padre una parte della sua eredità per andarsene per i fatti suoi, e per fare di testa sua poi era finito con i maiali a pascolarli, sporco di fango, con la puzza di letame, a desiderare di voler mangiare quello che i maiali stavano mangiando. Però, al verso 17 di Luca 15, leggiamo questo. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. E il figlio gli disse: «Padre, io ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Sapete, lui sapeva di essere figlio, ma ormai si considerava alla stregua di un servo. Voleva vivere nella casa del padre, ma voleva vivere come servo, perché i maiali, il letame, le circostanze in cui lui si era ritrovato e la loro puzza che si sentiva addosso avevano definito la sua identità. Non è così che tante volte noi pensiamo di noi stessi? O capita solo a me? Non è così che sono passati 22 anni che io ho accettato Gesù e ancora penso alla puzza e dico: bah, quanto faccio schifo, quanto sono pietoso. Non è così che tante volte noi pensiamo di noi, ma il Padre pensa diversamente. Il padre pensa diversamente. Verso 22: «Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è ritornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a fare grande festa. Al padre non spaventa la tua puzza. Non spaventa la tua puzza di letame. Non ha importanza al padre dove tu sei stato. Al padre ha importanza dove sei ora e dove vuoi essere domani. Al padre ha importanza che tu ti sei pentito, che tu hai deciso di fare un'inversione di marcia e stai scappando dai maiali e te li vuoi lasciare dietro perché vuoi solo le sue braccia che sono intorno a te. Questo è quello che importa al padre. Torniamo ai nostri appunti. Ecco perché sei contento. Ecco perché sei contento. Scrivitelo. Ecco perché io sono contento. Perché il Padre mi ha accolto. Io sono contento di essere. Il figlio si sarebbe accontentato di essere uno dei servi, ma il Padre lo voleva, contento di essere figlio suo. Il Padre ti vuole contento di essere figlia, figlio suo. Ritorniamo ai nostri appunti. La vita vissuta nell'amore di Cristo è una vita contenta. Vissuta nell'amore e contenta. Chi perderà la sua vita la salverà. La vita persa, cioè la vita arresa nelle mani di Cristo, è una vita contenta. la vita resa nelle sue mani, non nelle tue, è una vita contenta. In Cristo siamo seduti nel cielo con Dio. Ad Efeso l'ha scritto, nella lettera agli Efesini, ma Dio è ricco in misericordia e per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Con Cristo siamo coeredi di Lui perché figli del Padre. Romani al verso 17 dice: se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Io ho imparato in qualsiasi circostanza che io sono contento di essere. Questo non ci rende esenti dalla sofferenza, quanto piuttosto questo permette a noi di perforare la sofferenza attraversandola da una parte all'altra per portarci davanti alla gloria di Dio. È forte, è intimo. È profondo perché va a che fare con noi e con le nostre sofferenze e con le ingiustizie. Ma questa è la verità. E se noi afferriamo questa verità, come Paolo, possiamo anche noi a nostra volta affermare di essere contenti dello stato in cui siamo, perché la nostra soddisfazione è data da Cristo. E noi siamo contenti di essere in Cristo. E noi siamo contenti di quello che Dio, di quello che Dio dice di noi. Come abbiamo cantato, e ce lo diciamo, non ci diciamo le altre cose, ma ci diciamo quello che Lui dice di noi, perché noi siamo contenti di essere in Cristo, di essere con Cristo, di essere per Cristo, contenti di essere appagati da una sola verità, cioè abbiamo la vita eterna. Abbiamo la vita eterna, siamo stati afferrati da Lui. E l'abbiamo letto, ve l'ho predicato io qualche domenica fa. Paolo dice: io sto cercando di afferrare il motivo per cui sono stato afferrato. È Dio che ci ha scelto. Giovanni 15:16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo. Domanda: di cosa ti stai accontentando? Lo spazio è vuoto, è la tua risposta. Dobbiamo fare i conti. Non so se sei già in grado di scriverla adesso, guardandoti dentro, se lo vuoi fare quando sei a casa. Rispondere a questa domanda è la chiave per portarti a casa le parole che Paolo sta dicendo. Altrimenti sarà un bel messaggio che non avrà prodotto nessun risultato in noi. Paolo ha scelto di imparare ad essere contento in ogni circostanza in cui si è trovato, non permettendo ai fattori e alle situazioni esterne di influenzare la sua identità. Piuttosto, Paolo sceglie di non accontentarsi misurandosi in base a quello che ha. Piuttosto Paolo sceglie di non accontentarsi misurandosi in base a quello che non ha. Sceglie di non accontentarsi misurandosi in base alle circostanze in cui si ritrova. Sceglie di non accontentarsi misurandosi in base ai successi che ha ottenuto predicando il Vangelo. Sceglie di non accontentarsi misurandosi in base alle opposizioni che ha ricevuto condividendo il Vangelo. Sceglie di non accontentarsi misurandosi in base all'abbondanza in cui si è trovato a vivere. Sceglie di non accontentarsi misurandosi in base all'indigenza in cui si è ritrovato a non poter mangiare. Sceglie di essere contento, punto. E questo punto, lo ripeto, è grande quanto la croce di Cristo. Sceglie Paolo di misurare la sua identità in base alla croce che Cristo ha preso per lui. Paolo sceglie di impegnarsi per cercare di afferrare il motivo per cui è stato afferrato, Paolo sceglie di prendere la sua croce e di seguire Cristo. E facendo questo impara che in Cristo lui può ogni cosa in colui che lo fortifica e in qualsiasi circostanza può ritrovarsi, lui è contento di essere. In base a cosa ti stai misurando tu? In base alla promozione? Al lavoro? Che non arriva mai? O che finalmente è arrivata? E ora sei fantastico? E prima invece, boh, com'eri? In base al tuo cercare lavoro e non trovarlo? In base a cosa ti stai misurando? In base ai soldi che guadagni e che non sono mai abbastanza? In base all'erba del vicino che è sempre più verde dell'erba nostra? In base a cosa ti stai misurando? In base alla tua malattia che non passa mai perché Dio guarisce tutti tranne te? In base alla mancanza di chi amavi e che ora non c'è più e che hai perso? In base a cosa ti stai misurando? In base a cosa ti stai misurando? In base al tuo divorzio? In base alla mancanza di tuo marito? In base alla mancanza di tua moglie? In base al tuo non essere stato in grado o non essere stata in grado di avere dei figli e di avere una famiglia? Sono tutte cose profonde, sono tutte cose dolorose, sono tutte cose vere che noi viviamo ogni giorno intorno a noi e forse anche noi stessi. Ma in base a cosa noi stiamo misurando noi stessi? Io ho imparato in qualsiasi circostanza che io sono contento di essere, ha detto l'Apostolo Paolo. Verso 13, da compilare nei nostri appunti, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. È a questo che Paolo fa riferimento quando afferma questa frase. In Cristo ho la forza di perforare il dolore e la sofferenza mie, che sono reali, ma posso attraversarli da una parte all'altra per arrivare ad ammirare la bellezza di Cristo e di Dio ed essere contento di essere figlio suo ed essere contento di essere coerede di Cristo. Sarò seduto con Lui nel cielo. Ci pensiamo mai a tutto questo? Viviamo scrivendo una storia di noi che parla di tutto questo? Sapete, io, questo è il mio pensiero. Io credo che Dio dà, per quanto Dio dia tanto valore, significato e dignità alla nostra vita su questa terra, Lui è venuto per riscattarci. E per Lui è così importante quello che noi viviamo qui. Io credo che noi diamo troppa importanza a quello che viviamo qui. Credo che alla fine lo facciamo diventare tutto quello che è la nostra vita. E ci dimentichiamo che la nostra vita è molto di più. Ci dimentichiamo che siamo stati afferrati per una vita eterna. Che è questo il vero valore. Che è questa la verità che ci fa essere contenti. E l'Apostolo Paolo ne ha vissute di tutti i colori, più di noi. Anche sulla salute. E Dio che gli ha detto? La mia grazia ti basta. Tanto piacere. Credo che dobbiamo dare molto più valore a quello che è eterno, a quello che non si vede, a quello che non possiamo toccare con le nostre mani, ma che potremo toccare davanti a Lui. Smettila di accontentarti quando puoi ogni cosa in Cristo. Smettila di accontentarti, di basare, di misurare te stesso in tutto quello che c'è intorno a te per essere contento, per essere felice, sii contento, perché puoi in ogni cosa essere contento di essere. Lo Spirito Santo è il nostro consolatore, e invito le ragazze a venire sul palco. Lo Spirito Santo è il tuo consolatore e lui freme per entrare in azione e per mettersi all'opera attraverso di te, nel tuo sentirti accontentato di quello che hai segnato o segnerai su quel foglio. Lo Spirito Santo è reale, lo Spirito Santo è vero, lo Spirito Santo è concreto, è così reale che 22 anni fa mi ha convinto di peccato. Se sei qui oggi, se sei per la prima volta, so che ti sta già convincendo di questo, ma se sei qui oggi da un po' di tempo, è perché lo Spirito Santo quando sei entrato attraverso quella porta ti ha convinto di peccato, è reale, è vero, ti ha convinto di perdono, ti ha convinto di giustizia. Lo Spirito Santo è con te sempre, lui è pratico, è misurabile, è quotidiano, è presente, ha un frutto, c'è un frutto che viene da lui, lo possiamo misurare. Non è che non puoi avere pazienza, la puoi avere, hai lo Spirito Santo. Devi attraversare la frustrazione, devi attraversare quel dolore, devi attraversare quella sofferenza che c'è dentro di te, che non ti fa avere pazienza in quella situazione, devi arrivare dall'altra parte, devi contemplare la bellezza di Dio e devi afferrare il frutto della pazienza. E tu ce l'hai. È misurabile e mi piace. Quando qualcosa è misurabile mi piace perché noi possiamo dire è vero, è così. Guarda, questo è il risultato. Lo Spirito Santo è con noi sempre. È con noi nell'abbondanza. È con noi quando non abbiamo nulla. È con noi quando siamo in vacanza e tutto è bellissimo. È con noi quando siamo al lavoro. Lo Spirito Santo è sempre accanto a noi. Io vorrei che ci possiamo prendere, ci possiamo alzare in piedi. Ci prendiamo questo tempo che abbiamo davanti nel ricantare il brano con il quale ci siamo lasciati nel momento di lode, nello stare alla presenza dello Spirito Santo, nel permettere a Lui di imparare che significa che io posso essere contento di essere, che possiamo rotolare tutte le cose delle quali ci possiamo accontentare ai Suoi piedi, che possiamo perderle, perché Lui ci ha salvato. Lo vogliamo fare? Vi lascio con lo Spirito Santo.